Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Come le riconosco al volo, le viaggiatrici facebookanti. Sono quelle che sorridono mentre stanno sedute al loro posto in treno quando non c'è niente da ridere. Vanno davanti il loro smartphone e smanettano. E con mimica facciale, con postura, riescono comunque a far capire quanto sia profonda e viscerale la loro soddisfazione per le infinite possibilità che a loro si presentano di viaggi che vanno ben oltre la strada ferrata che stanno percorrendo. Questo accade con la ragazza che mi sta davanti. Devo dire che è sufficientemente bella, e non me la vogliano le ascoltatrici trasparenti, quelle che si dicono cozze, si proclamano brutte, dicono a noi non ci pensi, non ci guardi. Sì, guardo tutte, penso tutte, immagino tutte, ma questa ragazza in particolare la vedo presa nel suo più accanito momento di passionale ricerca dell'uomo della vita. Cosa stai smanettando sullo smartphone? Sto rispondendo a un messaggio privato di un tizio che non conosco. Perché te l'ha cercato? Beh, mi ha aggiunto su Facebook, vuole uscire con me, sto cercando di capire che tipo è. Quanti anni hai? Io 32. Beh, sei grandina ormai, non è un gioco da bambini questo. Beh... O da troppo adulti magari. Ma in realtà 30, 40, 50 funziona così. Ma che serve Facebook secondo te? Serve a questo, a uscire con la gente. Solo per quello? Assolutamente sì. Quindi è inutile dire Facebook, mi diverte, mi piace. Solo per acchiappare. Uomini e donne. Sì. Indifferentemente. Sì, sì. C'è un'area terza in cui tutto è lecito. Sì, tutto è lecito, anche perché è velato da quell'ipocrisia di altro, no? Non sei su Tinder, non sei su Meetic, sei su Facebook. Che servono solo per trombare quelle lì. Ma in realtà anche Facebook, solo che è più mascherato. Io ho amiche che dicono io lo uso pochissimo, guardo soltanto gli altri. Sono le peggiori. Esatto, bravo. Perché spiano, osservano, giudicano, ma non si mettono in gioco, non partecipano. E quindi sono soggetti pericolosi. Anche molti uomini sono così. Cioè fanno finta che loro mettono le foto della moglie, dei figli. Ah, e poi stanno a guardare le foto tue in costume, è ovvio. Dei cagnolini, dei gattini. Esatto, sì. O partecipano alle belle battaglie civili. Soprattutto così acchiappano i like della gente e intanto si fanno i fatti loro. Ecco, qual è il peso del like? Tu che peso dai un like sulla tua foto? Allora, dipende. C'è il maniaco dei like che mette like a chiunque e quindi gli do poco peso. Poi invece c'è quello lì che mette pochi like selezionati e quindi ha il suo peso. E che vuol dire quello? Vuol dire che tu hai messo una foto fica, lui ti ha messo like e quindi ovviamente sarebbe disponibile ad un incontro. Ah, già basta un like per la disponibilità ad un incontro? In realtà sì. E quando te lo mette la donna? No, mi interessa anche a me. No, ci sono le foto che piacciono più alle donne, le foto che piacciono più agli uomini. I like delle donne sono così, le amiche, una specie di solidarietà, quanto sei fine, la donna che piace alle donne, tutti quei cliché lì. Ma sembra tutta una rappresentazione per chi guarda. Certo, è tutto sempre finto, fintissimo. Tutto finto. E il vero dove si svolge? Il secondo livello, quello della chat? Sì, diciamo, entriamo un po' più nel vero. Poi il vero scatta quando finalmente ci si conosce. Ma tutto ciò che accade sui social non è nulla vero. Tutto finto. Tutto finto. Ma purtroppo ne siamo immersi. Non so il vero dove andrà a finire. Ma tu da quando sei tuffata in questa sorta di... Ma prima i social erano soltanto un divertimento. Poi ho scoperto il loro reale valore da quando sono single. Cioè da un anno. Sei single dopo quanto tempo? Dopo 9 anni. 9 anni di impegno, in cui il social era soltanto un giochino. Sì, esattamente. Non ci facevi caso? No, non ci facevi caso. E il giorno che sei stata sola è cominciata la caccia grossa? Beh sì, mi sono accorta, ho distinto tra un like e l'altro, dicendo, beh, andiamo a vedere questo chi è. Si pregano i signori passeggeri di abbassare la suoneria del cellulare per non recare disturbo agli altri viaggiatori. E quindi? Beh, si va a vedere questo chi è. Ogni volta un centro. Sì. È sempre così? Sì, si razzola così un po' nel mucchio. Nel mucchio? Sì, e si distingue. Uno cerca di fare selezione, c'è chi accetta qualsiasi amicizia, io ad esempio no, accetto solo chi ho in comune, chi conosco davvero, chi mi interessa. E si parte da lì, purtroppo. Ma perché purtroppo? Tanto non è la stessa cosa che incontrarsi al bar. No. Perché? Perché è mediato da tutte le bugie che raccontiamo agli altri, a noi cioè stessi. Quando ti vedi sei già molto avanti rispetto a una conoscenza sì, grande. Sì. Già gliel'hai quasi data, diciamo. Gliel'ho quasi data e so già delle cose che non vorrei sapere. Che normalmente non si dicono. Che normalmente cose. Non si dicono, sì. E quindi c'è quel rosicamento che in realtà ti fa cedere ancora prima. Esatto, sì. Lo so, figlia, il mondo è così. Il mondo è così. Raccontami un po', fammi una tipologia delle persone che hai incontrato. Tramite Facebook, certo. Guarda che c'è anche Twitter, non è solo Facebook. A Twitter sono anche? Certo, a Twitter sì. Pensava solo per i giornalisti pavoni. Bravissimo. Per fare dei commenti. Esatto, e quindi lì ci si incontra tra giornalisti pavoni, che anche loro sono i peggio. Ah sì? Sì. Ah, ecco perché certi miei colleghi hanno tonnellate di persone che li seguono, che bello, che bravo. Sì, eppure lì è la stessa cosa. Dimmi, su Twitter non mi sfugge un po', come funziona? Guarda, quella è una scienza, perché il livello di ipocrisia sale ancora di più rispetto a Facebook, no? Allora lì tu scrivi una cazzata e la gente ti mette preferiti. Allora, se uno ti mette preferiti in continuazione, tu vedi la notifica e quindi anche lì scatta, andiamo a vedere questo chi è. Non potrebbe essere gli piace quello che tu dici, che tu pensi, ma un pensiero, no? Chissà, dipende. Sì, ma anche no. Cioè, se metti preferito a qualsiasi cosa che scrivo, vuoi andare a letto. Mi mandi dei solo per questo? Ma sì, ma alla fine sì. Ma è così esplicito, non l'avevo mai pensato. Poi c'è la stanga, cioè dopo il preferito scatta il messaggio diretto, sbam. E quindi inizia a che parlare. Manco, nemmeno li guardo su Twitter. Gianluca, perché non siamo nella stessa condizione. Me io la colgo te. Dopo settimane che sono messaggi di te. Se tu fossi un trentenne single alla ricerca, invece li guarderesti i messaggi privati. E quindi? E quindi ti arriva il messaggio, che ne so, dello scrittore bresciano. Cioè, magari non avresti possibilità di incontrarlo, no? Sì, ma qual è la scrematura che si fa su Twitter? Che c'è sempre qualcuno che comunque ha un ruolo velleitario reale, ma mediamente pubblico, uno scrittore, un giornalista, un pensatore, un artista, no? Quello sì, però cioè lo sfigato su Twitter è un po' difficile, come si lo sfigato rappresenta? È quello che ti segue sempre, che ti risponde anche se tu non gli rispondi mai nella vita, che aggiunge a preferiti qualsiasi cosa tu scrivi in maniera indiscriminata. Sì, ma come si qualifica? Difensore dei gattini abbandonati, difensore dei diritti, degli assiro-babilonesi, cioè qualcosa farà. Si qualifica come follower che nella sua testa ha delle cose in comune con te. Quindi parla male di Berlusconi, parla male di Renzi, parla male di napoletani, qualunque persona. Dipende, vabbè, tu poi vai un po' a vedere il profilo, di che cosa parla, di che cosa non parla e capisci un po' che persona è. Trovate dei punti in comune. Sì. Sempre arrabbiato verso qualcuno. No, vabbè, non sono tutti così su Twitter, però al 90% sì. Il treno va. Bentornati a bordo. Si ricorda che per informazioni e prenotazioni è attivo l'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Dopo il messaggio privato, anche lì c'è: senti Ciccio, sto andando, che ne so, a Milano a fare una cosa, ci incontriamo. Sì, ah, okay, sempre a metà strada ci incontri. Ah, beh, sì, se sono persone lontane, sì. Ah, perché tutte queste cose avvengono sempre in città diverse. Può succedere, certo. Cioè, nel tuo quartiere non c'è mai qualcuno che ti viene a cercare che magari abita a 100 metri da casa. Ma no, vedi, queste dinamiche old style non ci sono più. Non ci sono più. No. Vabbè, ma se uno fa una vita che non va a Bergamo, cosa, come fa a incontrare? O trova l'occasione. L'acchiappo in palestra, l'acchiappo al supermercato. Ma puoi tentare al Simpli la domenica sera, ecco. Però cos'è, è il diverso. Il supermercato. Ah sì? Dall'Esselunga Sesse Milanese, non lo so. Però, cioè, ti dico, da quando... Beh, lì funziona molto. Se andare lì, fare finta che... Scusi signora, sa, mi consiglia un buono shampoo che non so quale comprare. Ma non succede più, no, perché non succede più. No, niente a nessuno. Siamo tutti dei disadattati. Anche se abitiamo uno di fronte l'altro, dobbiamo prima passare per i social. Non lo so perché. Ah, quindi tu twitti col tuo vicino di casa magari? In realtà sì. Vi dite tutto, poi quando siete già virtualmente smutandati potete anche concludere. Sì, oppure che ne so, ci diciamo tutto, invece se ci incontriamo manco ci salutiamo. Cioè, ci sono pochi quelli che poi passano realmente all'azione. Io ad esempio sono così, cioè se tu mi cerchi su un social e mi parli in qualche modo, o mi metti like o mi scrivi, ok, io poi ti voglio incontrare. Noi siamo amici su Facebook. In realtà sì. Ma io penso manco, manco lo sai. E tu mi mettevi dei like? Sì, ti metto spesso like. Però vabbè, cioè, su 5.000 like come fai a notare il mio like? Io no, perché l'approccio è diverso, approccio diverso, devo dire onestamente. Io non sono famosa, quindi... Ma non so manco io sono famoso, faccio... Pulisco gli scompartimenti dei treni. Questa è l'ultima mia professione. Chi mi segue con attenzione sa quanto io sia ossessionato dalla leggerezza. È il punto d'arrivo più sublime, leggerezza nel pensare, leggerezza nel rapportarsi, leggerezza nel vivere, leggerezza nel soffrire, leggerezza anche nel morire, se mai fosse possibile. Beh, nella mia ricerca di leggerezza ho sollevato per anni donne sulle mie spalle per farle sentire leggere. E gli uomini? Gli uomini come fanno a sentirsi leggeri? Non lo so, non lo immagino, non mi viene nemmeno di pensarlo, però ho notato una cosa: che improvvisamente sono fioriti nelle città italiane un'infinità di centri estetici frequentati soprattutto da uomini. Soprattutto uomini vanno a fare manicure, pedicure, pulizia del viso, trattamenti estetici, chissà perché. C'è quella fila lunghissima di vecchietti, di umarelli che stanno davanti al portone di questi fantastici centri estetici che hanno tutti nomi strani: fiore di loto, massaggio orientale. Cosa andranno a fare? Ma quando escono comunque hanno l'impressione di essere tutti più leggeri. L'uomo difficilmente sa essere leggero e le uniche donne che ancora si prendono l'onere dell'alleggerimento maschile sono quelle votate al martirio, le complessate autodistruttive, le disperate o le prostitute. Tra queste ultime la categoria più innovativa nel rapporto impegno-risultato è quella delle manipolatrici cinesi. Si nascondono sotto l'insegna dei locali per massaggi, dove in realtà gli uomini vanno consapevoli che l'unica manipolazione che quel luogo giustifichi è quella atavica della loro auto-iniziazione ai misteri del sesso. Da qui la fortuna dei saloncini della pugnetta cinese. Sono la proiezione tridimensionale dei fantasmi evocati decenni prima dal catalogo Postal Market, con un additivo esotico che rende la cosa ancora più onirica, irreale e quindi abbassa il livello del senso di colpa che insorge in simili frangenti. Girovagando nella notte milanese, sono incappato in una via accanto ai bastioni di Porta Venezia che pullula di saloni da massaggio gestiti da cinesi. Mi ha colpito che uno di questi luoghi di intime manipolazioni low cost avesse la scritta Kaori in una grande insegna luminosa. Ho pensato che la straordinaria capacità di adattamento dei cinesi al territorio che divorano con le loro attività non ha saggiamente dimenticato che Kaori è un nome familiare alla cultura pop italiana, che ha visto rivestire dalla pubblicità televisiva le proprie più nascoste pulsioni. Questo era il nome di una giapponesina protagonista negli anni 90 di una serie di spot che reclamizzano un noto formaggio spalmabile. Già tentai in un mio antico programma dell'epoca di tracciarne l'ambigua fenomenologia. Non si capisce bene chi sia l'adolescente nipponica che si fa di mascarpone. Nella realtà sappiamo soltanto che è una studentessa di quasi 30 anni che si chiama Kelly Wu. Su di lei aleggia un mistero che nella serie degli spot si infittisce ulteriormente: Kaori. Ragazza alla pari, amica dei figli, serva e schiava, concubina. Ma chi è Kaori? La vediamo arrivare un giorno lontano in questa famigliola felice. La immaginiamo una ragazza di quegli scambi che si fanno per cultura, che arriva dal Giappone. Poi bambini scemi che si nutrono tutta la vita di formaggio fuso. Oh, ecco, arriva Kaori! I bambini sono tutti contenti. La prima cosa che fa Kaori è mostrare la sua invidiabile forma, secca come un'acciuga. Ma perché? Ma perché mangia Philadelphia, che sarebbe il formaggio che si spalma. Andando avanti nel tempo, Kaori arriva al punto di servire a tavola con il kimono, quindi sarà assimilata come odalisca personale di questo signore che se l'è potuta comprare. Poi va in palestra e le altre bimbe più chiattone dicono: guarda Kaori, sembra che voli. I cinesi hanno quindi personalizzato la loro offerta di Pippa Shop al nostro immaginario nazionale. Viene evocata Kaori, la caseofila giapponesina schiava, colf, trovatella adottata e quanto altro che imperversava nello storico spot televisivo. Eccoci arrivati. E questo è Kaori. Vieni dal Giappone per studiare. Parli italiano? Poco poco. Avrai fame? Poco poco. Gira, Garcia. Philadelphia, assaggia. Senti com'è cremoso. Buono, vero? Kaori, stai con me per sempre? No, poco poco. Ma sono solo queste parole. Philadelphia? Sì, tanto tanto. Kaori, sei unica. Philadelphia, unico. Philadelphia, il gusto unico, inimitabile. Kraft, cose buone dal mondo. Ho sempre diffidato degli amici spacconi, quelli che si vantavano delle palpitanti, multiple e focose storie amorose, quelli che si vantavano di farlo tante volte, quelli si vantavano di rendere le donne esauste, fiacche, che imploravano pietà: basta, non ne posso più, lasciami. Ma sono sempre stato curioso di sapere quello che è il punto di vista della donna di fronte a il vanaglorioso amoroso che in realtà nella vita, poi all'atto pratico, è soltanto un inconcludente amoroso. Ciao Gianluca, sono Giovanna, ti voglio raccontare la mia storia con un inconcludente amoroso, bellissimo, un uomo fantastico. Dopo un incontro fatale e folgorante, contando il colpo di fulmine, che uomo, mi sono detta, finalmente un uomo deciso e sicuro che si prende ciò che vuole. La sera precedente mi arriva SMS suo: sto uscendo dal cinema e ho i brividi. Io: che film hai visto che ti ha emozionato così? Lui: no, non è il film, ho i brividi perché devo correre, ho mal di pancia. Lo sai che da lì in poi non ci siamo più visti, perché lui era sempre occupato. Successo, questa storia è durata appunto 4 mesi, perché io ero troppo curiosa di sapere, di leggere e di capire che cavolo sarebbe riuscito a scrivermi la volta successiva. Ogni tanto mi arrivavano i suoi messaggi, mi scriveva: stasera voglio di vederti. E io: dimmi tu dove. Lui: ma andiamo, si può andare, bla bla bla bla. Ma ci saranno i bagni? Io: beh, penso di sì, hai visto un locale senza bagni? Lui: vabbè, e se poi esco e mi scappa? Ovviamente spariva e non ci si vedeva. Certo è spietato e implacabile il giudizio di una donna quando diventa la depositaria dei segreti più intimi di un uomo, che non sono mai sempre solamente legati alla sua capacità di essere uno stallone imperturbabile, ma molte volte anche delle sue piccole debolezze fisiologiche. Un uomo è fatto anche di questo, un uomo è fatto anche di cicli gastrici, un uomo è fatto anche di piccole incongruenze legate al suo apparato digerente. Certo, questo signore in particolare è regredito probabilmente a una fase infantile in cui probabilmente la scarsa possibilità di gestire la sua emozione lo rende un goffo e terrificante uomo che deve correre sempre in bagno. E questo la donna l'ha ricordato, per quanto possa essere una donna pietosa, compassionevole, paziente, ne fa l'arma più affilata della sua vendetta nei confronti dell'inconcludente amoroso che ha preferito a lei un rotolo di carta igienica. Di notte mi arrivavano i suoi SMS: ti vorrei, ma sono chiusa in bagno da ore. Quindi io in realtà non avevo una storia con un uomo, ma con i suoi misteri intestinali. E quindi ero ormai ad un punto di divertimento e non non riuscivo a non rispondergli o a non tenere la comunicazione, perché era troppo divertente. Ogni tanto il sabato pomeriggio mi proponeva una limonata e io dicevo una limonata, ma nel 2010 c'è ancora chi beve la limonata. E poi pensavo, ah già, è vero, ma è astringente. Ovviamente l'appuntamento veniva disdetto puntualmente, perché o si era addormentato o perché gli era venuto mal di pancia. Vuoi sapere quando è finita? Quando ho cominciato ad annoiarmi, ormai non mi divertiva più, era talmente prevedibile nelle sue cavolate che ha perso il fascino del divertimento, e quindi ho cominciato a non rispondergli più, perché era triste, noioso e veramente non se ne poteva più. Si informano i signori passeggeri che è vietato sostare nelle toilette durante le fermate intermedie del treno. È singolare perché le statistiche parlano della caduta di ogni pudicizia rispetto all'espressione delle proprie funzioni gastrointestinali in un rapporto di coppia, perlomeno dopo mesi e mesi, se non anni, di profonda convivenza. Questo inconcludente amoroso in realtà ha creato una barriera dello schifo preventiva rispetto alla possibilità di consumare un rapporto. Forse la barriera che lui stesso si è costruito per non andare mai al dunque, per non arrivare mai al cimento della grande prova in cui l'inconcludente amoroso viene portato a dover concludere. Certo è che il ricordo che lo lascerà in questa donna e il ricordo o l'immagine che ha dato nella lunga, dettagliata e ampia trattazione che questa donna ha fatto per sputtanarlo nel giro di tutte le amiche, probabilmente anche comuni, creerà attorno a lui una cortina di ferro che impedirà, anche se non domani, e si fosse mai pentito della sua condizione inconcludente amoroso, di poter mai concludere un rapporto amoroso. It's a shame, it's a shame, it's a perfect shame. Creep under my door and we do it again. It's so easy and easy and easy and easy and creepy and creepy and creepy and creepy. Oh. Il treno va. Bentornati a bordo. Si ricorda che per informazioni e prenotazioni è attivo l'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. I miei viaggi in treno mi permettono incroci singolari e molte volte mi capita di rincontrare persone che ho incrociato nel viaggio d'andata e nuovamente rincontro nel loro viaggio di ritorno, come la signora bionda divisa fra New York e Dubai che sta ritornando in treno verso l'aereo che la riporterà nuovamente negli Emirati, e quindi comincio a interrogarla, a pressarla, a farle domande su quello che per me è il segreto più insondabile, quella che è la vita misteriosa delle donne degli Emirati che lei conosce, che lei frequenta, anche se a distanza. Ad esempio, in una zona in cui ci sono mari, piscine, in cui tutti stanno al sole e fanno il bagno per tutto l'anno, come fanno le donne che devono viaggiare velate dalla mattina alla sera? Sostanzialmente, ma quando vanno suggerisce a fare il bagno, vanno al mare, in piscina, visto che... Vanno al mare, in piscina, ci sono dei costumi da bagno che corrispondono a quelle che sono le nostre mute, sostanzialmente hanno dei leggings. Una muta da sub? Una muta da sub, sì, anche se comunque non è facilissimo vederle in spiaggia, devo dire la verità, questa è l'unica cosa. Avranno piscine private, chiuse? Probabilmente, anche perché vivono in case normalmente molto grandi, dove possono comunque avere della libertà. Anzi, le case sono fatte in questo modo, loro hanno una sorta di gineceo, che in un certo senso può essere paragonato a quello della Grecia classica, in cui le donne passano la loro vita, che è una vita comunque molto più comoda, molto più stressante. Tu sei mai stata? Sì, sei stata invitata da amiche tue? Sono stata invitata, anche se comunque ci sono delle differenze culturali tali per cui è difficile diventare amici stretti, diciamo, dei local, anche se comunque capita soprattutto perché... E che succede? Cosa fanno? Loro passano la giornata prendendosi cura di se stesse, prendendosi cura dei loro figli, ma prendendosi cura di se stesse in tutti i modi, sia fisicamente, perché passano molto tempo a curare il loro corpo, perché ribadisco, la femminilità un tempo era la moneta di scambio. Che non lavorano, infatti. No, ecco, questa è la differenza. Le donne zone adesso degli Emirati Arabi Uniti, quindi parliamo di questa zona, perché poi ovviamente se parliamo di paesi limitrofi è tutta un'altra questione. Vabbè, quello che tu conosci. Esattamente, negli Emirati Arabi Uniti ci sono grandi imprenditrici, ci sono donne che hanno raggiunto dei livelli molto alti nel governo e addirittura sono ministri, stati ministri o sono attualmente dei ministri del governo. E quindi ci sono moltissime imprenditrici che riescono a gestire una famiglia, indubbiamente, perché è più semplice anche avere dell'aiuto a casa, quello è ovvio, il labor cost, quindi il costo del lavoro è molto più basso, di conseguenza si possono ottenere sicuramente più aiuti rispetto a quello che hanno le donne. Sì, ma non vorrei far credere che gli uomini degli Emirati, a parte le mogli o le legittime consorti, non si lasciano andare. Con quali donne vanno quando fanno le feste, fanno i loro raduni, quando vanno a scapricciarsi? Guarda, se tu vedi, vai, non dico molto lontano, ma vai in Sardegna oppure a Monte Carlo d'estate, magari ci sono degli yacht di 50 metri e lì non posso giurare sul fatto che non bevano alcol oppure non vedano donne, però non lo sa nessuno. Ma lì no, lì dentro gli Emirati. Ma assolutamente negli Emirati questo non è possibile, perché questo andrebbe contro la Sharia law e prevederebbe delle sanzioni. Quindi nemmeno gli uomini possono consumare adulterio. No, allora, gli uomini probabilmente lo consumeranno, ma comunque non si sa. Non per si la può. Donna comunque questo sarebbe un reato gravissimo. Ovviamente la Sharia law tende a penalizzare. Prostitute non ci sono ufficialmente. Ufficialmente no, ufficiosamente assolutamente. Penso nei grandi sì. alberghi ci sarà di tutto. Ci sono dei luoghi dove assolutamente trovi prostituzione di alto bordo e molto spesso sono donne dell'est, molto belle, perché ovviamente i livelli sono molto elevati, visto che ci sono anche dei soldi che magari in altri paesi mancano. Diciamo che la famiglia sta cambiando, perché quello che si vede adesso è forse quello che a volte manca in Europa quando mi capita di tornare in Italia, cioè vedo che innanzitutto le donne non sono più molte mogli, normalmente c'è una moglie soltanto. Si ricorda ai signori viaggiatori che non è consentito l'uso promiscuo dei servizi igienici durante il transito in galleria. Però possono essere poligami. Possono essere poligami e possono avere fino a 4 mogli, però il Corano prevede che tutte e 4 le mogli abbiano esattamente le stesse cose, gli stessi diritti. Quindi poterle mantenere 4 allo stesso livello. Sì, ma anche i regali devono essere gli stessi, il livello di vita deve essere lo stesso. Ogni regalo che fa una deve farle l'altra. Esattamente, deve essere assolutamente equal e questo è scritto nel Corano. Di conseguenza... Ma come distribuiscono, diciamo, la frequentazione delle mogli? Normalmente hanno case differenti. Ah, ognuna è in una casa. Le mogli certo non sono le migliori amiche l'una delle altre, perché hanno poi... Ma c'è una preferita, una prediletta? Normalmente la prima moglie deve dare il consenso al marito di poter prendere altre mogli. Questo accade anche tra i mormoni negli Stati Uniti, comunque accade anche in altre... Senti, fammi invece un paragone, se possibile, fra la donna media americana che frequenti, diciamo, le tue amiche, e queste signore di cui mi hai parlato adesso. Ma posso fare anche il paragone con le donne italiane, visto che io comunque nasco come italiana e sono naturalizzata americana. Ma quelle le conosciamo anche troppo bene. Eh sì, però questo non è molto diverso, nel senso che comunque le donne adesso hanno perso l'idea della femminilità, perché ci siamo accorte che probabilmente in un mondo tendenzialmente maschile, per riuscire a raggiungere il successo, bisognava cercare di essere più maschili possibile, più dirette possibile. Ma esiste ancora, diciamo, la figura della casalinga disperata come abbiamo conosciuta noi dalle fiction, dai telefilm, dalle serie americane? La casalinga disperata... Per noi siamo fra due modelli stereotipati, le ragazze di Sex and the City e le casalinghe disperate. Pensiamo sia tutte così, o 35-40 anni assatanate che girano tutte le sere a caccia di uomini, o poverette che stanno chiuse in casa e si disperano. Devo dire che questo probabilmente varia molto da regione a regione. Non per niente negli Stati Uniti ci sono 50 stati e sembra forse di vivere in 50 paesi diversi, comprese le leggi, che spesso alcune leggi sono federali e valgono per tutti, ma leggi statali sono molto molto diverse. Il modello a cui ci rifacciamo noi, cosa? La donna newyorkese, quella allora, conosciamo meglio. La donna newyorkese è quella che forse per antonomasia è la donna americana che tutti riteniamo che sia la donna di riferimento. Quella dei film. E non lo è, non lo è, perché New York di per sé non è la città americana per eccellenza, perché è un crocevia via di persone di passaggio, c'è molta esteriorità e poca interiorità, c'è molto stress e quindi la donna americana sicuramente esiste, la donna quarantenne che magari ha alle spalle un matrimonio fallito e cerca di trovare un sostituto, però se devo dire il vero, forse più che le donne assatanate ci sono donne che ormai stanno cercando, c'è stato un boom incredibile dei siti di online dating, quindi da meeting.com ad altri siti, perché le donne ormai hanno talmente poco tempo che non hanno più la possibilità di andare comunque fuori, cercare, trovare per locali, aperitivi, queste cose qua che si vedeva. Esattamente, sempre per lo stesso motivo di cui parlavamo prima. Anzi, a maggior ragione le donne che magari provengono da un divorzio hanno ancora più bisogno di dover lavorare, di dover gestire i figli, quindi il tempo risulta sempre minore. Gli uomini di per sé comunque lavorano molto, hanno uno spiccato senso del dovere, devo dire il vero, si vede a tutti i livelli. Di conseguenza il fatto di poter trovare uno shortcut, una via di mezzo tra quella che era in fondo il fatto di cercare una persona giusta prima o adesso con le nuove tecnologie, si sta spostando verso le nuove tecnologie. In realtà sono agenzie quasi matrimoniali, più sì, moderne. Ma è anche un modo per espandere le proprie conoscenze. Io ho delle amiche, per esempio, che sono iscritte da diverso tempo e intanto c'è comunque uno screening iniziale, tale per cui si cerca di frequentare persone che comunque ricadano. Quindi metti molti dati tuoi. Compresi dati finanziari. Sì. Se preferisco frequentare persone che abbiano un determinato reddito, anche perché probabilmente le aspettative sono poi proporzionali a quello. Quindi trovi la persona, l'incastro giusto, ecco. Non l'incastro giusto, che poi spesso, perché ovviamente non è che tutti trovano, ma i matrimoni sono moltissimi che derivano da questo, però spesso prima di arrivare. È vero che costa anche molto iscriversi a queste, diciamo, a queste community? No, assolutamente. Ma addirittura ci sono dei siti web specializzati. Se uno vuole sposare un soldato, ci sono i siti web specializzati per trovare persone che facciano questo mestiere. Sì. Ormai veramente la scelta è ampia. Però molto spesso si finisce per aumentare quello che comunque in America è considerato molto importante, che è il networking. Cioè si conoscono persone spesso in luoghi pubblici, si comincia con un pranzo, magari non finisce in un amore ma finisce in un'amicizia e poi una porta ne può aprire un'altra. Diciamo che invece quella che, ritornando alla domanda precedente, è la desperate housewife. Ovviamente è stato un cliché quello del telefilm, è un cliché così come un cliché Sex and the City, però indubbiamente le donne sono estremamente sotto pressione. La differenza che noto io, e lo noto con la vita di ogni giorno, perché un turista probabilmente a un turista sfuggono determinate sfumature, è il fatto che la donna, comunque la western woman e soprattutto la donna americana, che ha dovuto dimostrare di essere brava quanto gli uomini per poter lavorare e di essere comunque in grado di gestire la famiglia, di essere comunque sufficientemente femminile per rimanere piacente anche dopo una certa età, ha comunque grande pressione. Mentre la donna araba, tutto sommato, e ovviamente parliamo di un determinato, anche in questo caso parliamo di un upper middle class, perché poi se andiamo a cercare insomma tra i livelli più bassi questo ovviamente non esiste, in un certo senso riesce a creare un bond, un legame molto più forte con le amiche, perché ha una vita familiare tale per cui comunque la famiglia composta dalle donne o le amiche diventano molto importanti. Beh certo, se sei ricca non c'è una mazza da fare dalla mattina alla sera. Ti faccio un esempio classico. La pressione è minima. Ti faccio un esempio proprio da giornata classica. Si va al supermercato e tu vedi la donna araba che cammina con i tacchi alti e sceglie con molta calma. Loro anche camminano molto più lentamente di noi perché non devono andare di corsa. Va, sceglie le sue cose, spesso magari anche un aiuto, quindi non deve nemmeno fare i sacchetti. Poi sempre un indiano dietro che gli fa i pacchetti. No, più che un indiano spesso ci sono delle ragazze filippine che aiutano. Comunque anche loro fanno delle cose, però lo fanno con una lentezza dovuta al fatto che loro hanno la giornata a disposizione. E poi si vedono donne come noi che invece che avere i tacchi alti hanno le flip flop di plastica, magari hanno un bambino che piange dentro nel carrello e che si stanno affannando per cercare di tornare a casa. Ovviamente anche gli espatriati hanno la possibilità di avere molto più aiuto di quello che abbiamo qua, ma questo è per darti un'idea di come tu puoi vedere le cose ogni giorno, magari alle 9 del mattino in un centro commerciale. Beh, adesso ti alleggerisco dalla mia depressione, perché i miei viaggi sono molto brevi, molto tristi e anche molto da povero nel treno. I tuoi sono intercontinentali, i tuoi vanno dagli Emirati Arabi agli Stati Uniti, i miei si fermano alla prossima stazione. Ciao. Ciao. Quizás fue tu respiración, tu risa o tu mirar, lo que causó la dispersión que no puedo evitar. Tal fue mi desesperación que nunca quise dar. Mi corazón se destruyó cuando te vi escapar. Il treno va. Ed ecco il momento nel mio viaggio che ormai è scandito da delle pause in cui vengono date delle informazioni sul traffico, viene data della pubblicità, non so bene cosa accada mentre io viaggio e mentre voi mi ascoltate. Beh, ho deciso che l'ultima parte del tempo utile in cui il mio viaggio è a presa diretta con voi, di dare voce alle ascoltatrici che mi scrivono. Sì, perché ormai la categoria delle ascoltatrici prevarica di gran parte quella degli ascoltatori. Sono le donne che scrivono, sono le donne che hanno scelto il viaggiatore del treno, che aspetta sempre che alla fine di un binario ci sia una donna che a sua volta lo aspetta, sia il depositario dei loro racconti più segreti. È sorto anche un nuovo vezzo. Mi stanno scrivendo sempre di più le donne che dicono di essere brutte, non appariscenti, o addirittura, come questa ascoltatrice, trasparenti. Ma chiaramente così non sarà, o mi piace immaginare che così non sia. E mi racconta questa donna di una sua vicenda che sembra interessare dei suoi amici ormai radicati nella sua vita sin dai tempi lontani del liceo. Caro Gianluca, innanzitutto ti faccio i miei complimenti per il programma. Accettali, perché sono sinceri. Sono anni che ti seguo e posso definirmi una melogmane doc. Innamorata del tuo eloquio, che a volte goffamente cerco persino involontariamente di imitare. Detto questo, sono una per nulla appariscente ultra quarantenne. Visto che da qualche puntata dai ascolto anche a noi femmine trasparenti, ho deciso di scriverti. Non per parlarti di me, ma di una vicenda che mi ha toccato da vicino e che mi ha molto turbata. Ti sottopongo la storia di una coppia di amici che ho frequentato fino a pochi mesi fa, considerato che ci conoscevamo fino dai tempi del liceo. Loro si sono conosciuti il primo giorno di scuola. 5 anni dopo la laurea, stavano ancora assieme da sposati. Entrambi socialmente integrati nella nostra giocosa compagnia degli amici di sempre, tutti assieme in vacanza, nelle feste comandate, nelle amene serate. Allegri scavezzacollo di terziario avanzato, ci siamo avviati in piccolo branco all'età matura, come fossimo in gita scolastica. Quest'estate avevamo deciso che nessuno di noi poteva rinunciare alla Taranta e, facendo un bel gruppone, abbiamo preso in affitto una masseria a Poggiardo. La trasferta salentina fu nefasta per l'amore della coppia di cui ti sto parlando. Tutta la nostra allegra compagnia assieme a lui si rese presto conto che lei non era più come prima. Dopo una settimana di mutismo e litigi, il nostro amico, contraddicendo la sua natura perennemente monogama, ci stupì tutti quando ci comunicò di voler dare comunque un senso alla vacanza e, un po' per vendetta, un po' per infoiamento, cominciò apertamente a provoloneggiare con l'animatrice del villaggio vacanze dove tutti alloggiavamo, detta Lollipop per il suo straordinario turgore mammario. All'inizio era il gioco di tutta la compagnia, come quando ai vecchi tempi del liceo tutti sapevano chi della classe si stava per mettere assieme. Una sera la moglie l'affronta. Lui con Lollipop aveva provato la danza delle spade davanti al falò. «Quella non si tocca», gli sibilò. «È roba mia». Come finì la serata, te lo lascio immaginare. Le due donne fecero coppia fissa fino alla fine della vacanza. Lui sembrava persino sollevato e, anzi, molto discretamente i tre si staccarono da noi e parevano aver trovato una loro nuova armonia. Non ci facemmo domande. Ecco che accade l'imprevedibile. Improvvisamente un universo consolidato attraverso anni di liceo, anni di università, anni di accesso alla vita di eterni ragazzi che rimangono sempre in contatto, rimangono sempre amici, rimangono sempre l'uno sotto controllo della compagnia. Questa è una cosa tipicamente romana. Io che vengo da una provincia molto più maledetta, scellerata e molto meno legata a tali ritualità in cui la gente si odia e si tradisce sin dalla tenera età, vedere questi ragazzi romani ormai già sulla soglia di 40 anni che ancora si ricordano i professori di liceo, ancora si ricordano le gite scolastiche, ancora sono avvinti da legami amorosi nati sui banchi di scuola. Beh, prima o poi qualcosa doveva accadere. È accaduto improvvisamente qualcosa che ha cambiato completamente il loro universo. La bella animatrice del villaggio vacanze è entrata d'impeto a turbare quella che sembrava una coppia destinata a morire di noia fino alla fine dei loro giorni. e ha cambiato completamente quella che era la visione della vita, le certezze, le sicurezze di questa bella compagnia di ragazzi che magari erano pronti poi a guardarsi in terrazza le foto delle vacanze o a scorrersi sugli smartphone gli scatti e i selfie che dovevano suggellare quei momenti di eterna, futile, apparente e ipocrita felicità. Il seguito, invece, fu un inferno che durò i successivi 4 mesi. Lollipop non sapeva decidersi se in quell'unione che lei aveva sfasciato si sarebbe presa l'uomo o la donna. Un weekend saliva da Taranto verso Roma e stava con lui. Quello seguente era l'ex moglie a scendere da lei. Quello dopo ancora scendeva lui, la successiva Lolli saliva a Milano da lei. Fino a qualche settimana fa, l'animatrice ha fatto la sua scelta. Lei e la mia amica ora sono una coppia di lesbiche che vivono assieme. Lui non l'ha presa bene. Gli amici della compagnia lo hanno mollato perché è diventato insopportabile e consuma il suo stipendio in infimi amori mercenari. Non pensi che la vita sia piena di sorprese? Quando prenderò il prossimo treno per la Puglia, spero di incontrarti. È una tratta molto noiosa e la conosco troppo bene. Tua Marinella. Cara Marinella, ti sono molto grato e sono molto divertito nel tuo tentativo di imitare il mio modo di parlare, che non è affettato, non è manierismo. Parlo così, non so, forse è il linguaggio che si usava a casa, in famiglia, quando ero piccolo, o forse sono stato abituato da lunghi anni di scuola dei preti a parlare in questa maniera. Comunque il tuo tentativo è abbastanza riuscito. Non è riuscito il tuo tentativo di illudermi o di ingannarmi sul fatto che tu sia la moglie dell'amico che in realtà è il tuo ex marito. Il fatto che tu mi dica che prendi il treno per andare in Puglia mi fa pensare, immaginare, anzi mi dà la certezza, mi dai una traccia, quindi sei tu a volermelo dire, che sei proprio tu che a un certo punto della tua triste e monotona esistenza con il tuo compagno di liceo del quale non ne potevi più, hai deciso di cambiare pietanza. L'hai fatto in modo radicale, l'hai fatto perché sembrasse quasi uno schiaffo in faccia a tutti quei belli amici, quelle belle amiche che oggi ti parleranno alle spalle. Sei contenta, sei felice, sei appagata, ti diverti con la bella e popputa Lollipop? Beh, buon pro ti faccia. Quel poveraccio che probabilmente si sta consumando la vita nel tentativo di ricostruirsi anche lui un'alternativa amorosa, sensuale alla noia, alla tristezza di aver sotto la sua compagna del liceo per tutti questi anni, probabilmente tu sarai salva e lui sarà dissoluto, o probabilmente un giorno tornerete tutti assieme con i vostri amici che saranno curiosi di capire quale sia l'altra faccia della vita per chi è uscito dal seminato, che inizia il primo giorno del liceo e finisce probabilmente con la panchina dei giardinetti in cui due persone non hanno più niente da dirsi.